mia, sempre vorrà resta cuttia, e ti priego e ti saluto, oh Madonna du petto ruto, e ti priego e ti saluto, oh Madonna du petto ruto, oh Madonna, Madonna grande, chi sta sopra desa montagna, ginocchiato davanti a Tia, io ti priego, Madonna mia, ginocchiato davanti a Tia, io ti priego, Madonna mia, oh Madonna, Madonna mia, sempre vorrà resta con Tia, e ti priego e ti saluto, oh Madonna du petto ruto, e ti priego e ti saluto, oh Madonna du petto ruto. Da montagna tu si la pia, fammi grazia Madonna mia, poi e sempre sia lodata, a Madonna incoronata, poi e sempre sia lodata, a Madonna incoronata, ed è sopra sa grande altura, già si vira la tua figura, si può vide tra rose e chiuri, a Madonna di peccatori, si può vide tra rose e chiuri, a Madonna di peccatori, oh Madonna, Madonna mia, sempre vorrà resta tuttia, e ti priego e ti saluto, oh Madonna du petto ruto, e ti priego e ti saluto, oh Madonna du petto ruto. Oh Madonna, Madonna bella, chi li guardi de sa cappella, a cappella mo l'hai uccirata, e a Madonna mi sia lodata, a cappella mo l'hai uccirata, e a Madonna mi sia lodata, e da tutti si pellegrini, chi si stringiano a Tia vicino, tu Madonna la dai aiutare, ed è tutti non ti scordare, tu Madonna la dai aiutare, ed è tutti non ti scordare, oh Madonna, Madonna mia, sempre vorrà resta tuttia, e ti priego e ti saluto, oh Madonna du petto ruto, e ti priego e ti saluto, oh Madonna du petto ruto. Thank you.